scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in Scena. Complice, la notte tra noi due, comunque complice. La rabbia dalle vene si distende tra i cuscini e i nostri cuori. È nata nel 1972, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Inizia giovanissima l'attività concertistica, si avvicina al teatro con la compagnia di Sergio Fantoni, ai musical, al pianismo contemporaneo, al jazz, al pop. Arriva in finale a Castrocaro 2006. Nel 2011 il primo album, Tra il tempo e la distanza. Nel 2012 inizia a lavorare con Pietro Cantarelli, produttore e direttore artistico di Ivano Fossati. Nel 2014 esce il doppio album Lo Stato delle Cose. Lei è Roberta Di Mario. Mi sento pianista, insomma io vengo dalla musica, quindi sono ovviamente musicista, pianista, ma mi sento anche cantautrice, e queste due anime che adesso appunto vicine rappresentano chi sono io, sono l'anima cantautorale e l'anima pianistica, e sono state realizzate dentro questo insomma progetto che ho chiamato Lo Stato delle Cose, quindi oggi il mio stato delle cose è proprio questo. Di solito il musicista di musica colta si spinge al massimo al jazz e trova il pop non solo lontano, ma a volte insomma lo snobba un po'. Sì. Invece tu come hai scoperto che c'erano anche altri terreni belli da frequentare? Ma perché avevo questo desiderio di sperimentare, perché ho sempre avuto, credo, una idea giusta della musica, cioè che non c'è una differenza di musica di serie A, musica di serie B, musica colta e meno colta, c'è la musica bella, fatta di cuore, appunto, fatta di verità, fatta di ricerca, di sperimentazione, di gusto. E così quando io appunto negli anni del mio diploma mi sono avvicinata al mondo delle colonne sonore, al mondo dei musical, mi sono poi avvicinata al jazz, alla musica brasiliana, per arrivare poi anche alla musica più pop, insomma più legata magari a un mondo più legato al jazz, al swing, però sempre comunque pop, insomma abbastanza raffinato, e ho capito che quella poteva essere una mia strada, ma attraversando altri mondi, e soprattutto proprio con la convinzione che non volevo ci fosse una distinzione. Perciò, così come oggi nell'iPod di mio figlio metto appunto la canzone di rap perché lui ama il rap, che anche quella è un'arte, come Jobim, come Stevie Wonder, appunto come magari una canzone di Battiato, ci si può mettere tutto. Oggi davvero non ci deve essere distinzione, e penso che sia quella la giusta idea di un mondo che coglie la musica nel senso insomma di apertura, no? Nessuna musica di serie A, nessuna musica di serie B. Quando si fa musica, si fa musica con il cuore, davvero con il trasporto, con la passione che si deve sentire, e con della ricerca, con la voglia di sperimentare, tutto funziona. Ci sono state scritte le canzoni su tre accordi, come musiche bellissime e sinfonie, ma è quello che ti arriva, è quello che tu riesci a cogliere, e appunto la sincerità, la verità con cui questa musica viene scritta. Utile disorientare il cuore, forse utile perdersi un po' senza destinazione per queste ossa così sporche di polvere d'amore, ma io non c'è più, ero già distante altrove, e poi questo è lo stato naturale delle cose. Buttarsi nel mondo della discografia, insomma, è un mondo con dei meccanismi industriali e di tanti tipi, e anche un settore non facile. Peraltro io e te siamo quasi coetanee, non abbiamo 20 anni, 25 ne abbiamo, diciamo così, più o meno giù di lì. Com'è l'avventura sotto questo punto di vista? Perché non è facile, bisogna avere un po' di coraggio, sì, ad affrontare. È complicato, è tutto molto complicato. Negli anni 80 penso che le cose fossero un po' più semplici, e oggi è anche faticoso, direi, però credo che la strada sia sempre quella, cioè seguire un sogno, sembra banale ma in realtà è così, seguire un sogno, seguirlo con volontà, determinazione, con studio, perché ricordo sempre che lo studio è fondamentale. Poi le cose prima o poi arrivano. Io oggi sono a Radio 24, è una cosa conquistata grazie a un ufficio stampa che ho fortissimo, ma che è un ufficio stampa che ho raggiunto perché ho raggiunto un livello per cui potessi permettermi di avere un ufficio stampa così forte. Quindi si combatte ogni giorno, però io credo che proprio la volontà, l'impegno, la qualità alla fine vengano premiati, per cui magari sono più per la strada della gavetta, la strada del step by step, ogni giorno cercare di conquistarsi qualcosa di piccolo ma ingrossare piano piano il curriculum, piuttosto che magari questi talent che dove nel giro dei 6 mesi riesci a esplodere di successo e poi chissà dove si va, perché si è in attesa del prossimo vincitore, no? Del programma successivo. Sono più per un percorso lento, però insomma chi va piano poi alla fine davvero riesce a raggiungere gli obiettivi lontano. Cerchi una scusa ma io invece no, io cerco solo la verità, mi mescolo nella musica. Sento poi più niente, solo tasti bianchi e tasti neri. Mi è molto divertito sapere che hai aperto i concerti di Roby Facchinetti, che sì. è un mondo a parte, il mondo di fan molto appassionati, di una carriera lunghissima. Com'è sì, stata questa esperienza? È stata un'esperienza bellissima, devo dire che poi Roby è una persona deliziosa, è un grandissimo professionista, è straordinario, è un grandissimo musicista, quindi mi sono trovata anche in linea sotto questo punto di vista e ho catturato il suo pubblico ed è stata veramente una grandissima soddisfazione. Sono rimasta lusingata, però insomma quei 15 minuti di apertura dove tu davvero da sconosciuta porti la tua musica e il pubblico del frontman dei Pooh resta così insomma felicemente sorpreso e catturato, insomma vuol dire che poi la strada che sto percorrendo forse è la strada giusta. Sono molto curiosa di questa esperienza di Hands. È stata la mia prima esperienza ufficiale di colonna sonora. Ho scritto questo brano per accompagnare le immagini del video che racconta della mostra di Botero a Parma, del maestro Botero, e è stata un'esperienza meravigliosa, innanzitutto perché questo brano è nato proprio da dentro, in maniera molto naturale, proprio come soffio divino di ispirazione. L'ho intitolato Hands perché mi guardavo le mani mentre creavo questa melodia. E poi insomma è successo, sono venuta a sapere, io conoscevo diciamo le cose più importanti di successo del maestro, insomma, quindi queste grandi donne sproporzionate, no? che per lui appunto rappresentano in qualche modo insomma l'infinito e la potenza. E poi ho scoperto che dopo un incidente che lui ebbe tempo fa, dove perse la vita suo figlio e lui perse una falange, iniziò a creare delle mani grandissime. Quindi quando poi io diedi il titolo a questo brano Hands, prima di sapere di questa cosa, rimasi colpita perché mi sembrò quasi proprio un segno del destino. Album. Lo stato delle cose intanto ci fa capire che lo stato delle cose non è uno stato semplice, ma perlomeno doppio e duale, perlomeno quello, questa è una certezza, l'unica certezza. Sì, per me lo stato delle cose innanzitutto appunto è questo senso del doppio, il doppio all'interno del progetto, perché appunto c'è un progetto cantautorale con il CD dal titolo Songs, e con la prima canzone Lo stato delle cose, che appunto ha dato il titolo all'album, e un CD di pezzi di piano dal dal titolo Walk on the Piano Side, e quindi questa dualità e questo doppio, poi sicuramente il senso del doppio nella vita, cioè che tutto cambia e che in ogni aspetto della vita si può, diciamo, vedere sempre la dualità, mai la visione da uno stesso punto di vista, e un po' insomma il senso della felicità che si continuamente balla tra la fragilità e il coraggio. E la vita è tutto così, questa è l'unica certezza, il cambiamento, l'evoluzione, il fatto appunto che non ci sia niente di certo. Era questo il messaggio che volevo raccontare, l'ho raccontato attraverso due dischi, quindi un'operazione anche abbastanza coraggiosa in un momento insomma così della musica italiana un po' difficile, o comunque della cultura in generale che vacilla, che soffre, un po' sofferente, e poi insomma attraverso le canzoni che raccontano di questi stati d'animi diversi. Infatti appunto è questo disco un viaggio all'interno della mia inquietudine, della mia anima alla perenne ricerca e in continua trasformazione. Spesso si chiede agli artisti progetti futuri, desideri, però in questo caso sono davvero curiosa. E quali sono le tue prossime tappe e i tuoi desideri, piccoli, grandi, enormi? Io, prossime tappe ovviamente insomma sono i prossimi live, quindi un tour spero tra l'autunno e l'inverno, sempre dello stato delle cose, intraprendere sicuramente un progetto di composizione di colonne sonore, questo sicuramente, ma poi principalmente è vivere il più possibile di musica. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena, insieme a Roberta Di Mario. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.